5F. Ascolta e rispondi. Hai già dato da bere agli ospiti? Sì, gliel'ho già offerto. Hai già dato il libro a Giovanni? Sì, gliel'ho già prestato. Hai già dato il test agli studenti? Sì, gliel'ho già distribuito. Hai già dato il telefonino a tuo figlio? No, non gliel'ho ancora regalato. Hai già dato il documento alla segretaria? No, non gliel'ho ancora consegnato. Hai già dato il sangue al malato? No, non gliel'ho ancora donato.